A bordo campo di Dario Ricci. Innanzitutto un grazie a coloro che sono già intervenuti per le parole così cordiali che mi hanno rivolto e in particolare un grazie a te, caro sindaco Renzi, a nome di Firenze, e fa niente che da ragazzo io ti fassi per coppi. E allora l'avete sentito recentemente, anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dichiarato il suo amore per Fausto Coppi proprio in quella Firenze di Matteo Renzi, che oggi vive sicuramente una domenica non banale nella sfida per le primarie del PD, e in quella Firenze di Gino Bartali. E oggi proprio di Gino Bartali parliamo con uno dei suoi figli, Andrea, oggi nostro ospite. Beh, Andrea, la chiamo subito in causa. Che effetto l'ha fatto scoprire il tifo coppiano del Presidente della Repubblica? No, ma lui non conosce quello che rispondeva mio padre, che era coppiano. Infatti spesso c'era qualcuno che diceva: sai Gino, io sono per coppi. Ah, dice, bene, dice, nessuno è senza difetti. E quindi insomma sgonfiamo anche un po' le ruote del Presidente della Repubblica, che, certo. Che starà sicuramente al gioco. Beh, con Andrea Bartali parliamo oggi di un ginettaccio nascosto, ma che anzi proprio anche grazie all'aiuto di alcuni colleghi giornalisti, anche diciamo anche in piccolo di Radio 24, abbiamo riscoperto in questi anni fino ad arrivare allo Yad Vashem. Abbiamo scoperto il Gino Bartali giusto tra le nazioni, giusto tra coloro che aiutarono gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale a salvarsi, quelli che riuscirono a farlo dalla persecuzione nazifascista. E con Andrea Bartali oggi ripercorriamo quella pagina straordinaria della storia di Ginettaccio, dell'Italia e dello sport italiano. Andrea, lei è fresco di una visita a Gerusalemme che ha consacrato questo percorso di ricerca. So che ora nel Giardino dei Giusti allo Yad Vashem, che è il memoriale della Shoah, c'è una targa che ricorda proprio Gino Bartali, prezioso aiutante di alcuni ebrei che rischiarono di essere perseguitati, no, e deportati. Sì, è vero, io sono venuto a Gerusalemme, è stata una cerimonia molto commossa. Tra l'altro c'era anche una signora, figlia di ebrei, che ha potuto assistere alla consegna di documenti a Viareggio, in Versilia, di parte di mio padre ai suoi genitori, in modo che si sono salvati tutti quanti. Era già nell'aria questa cosa qua, però a Yad Vashem sono molto severi, mi hanno detto. Tutti i documenti devono essere vagliati, rivagliati, studiati. È un riconoscimento troppo valido per essere trattato con sufficienza. Per cui, ecco, che mi hanno detto, ma se suo padre avesse parlato, ci avesse detto queste cose, diciamo 30 anni fa, ma lo sa da quanto tempo era la sua targa qui a Yad Vashem? È anche vero, è proprio vero, Andrea, che caratteristica di Ginettaccio, tanto loquace, lo conoscevamo bene nell'accompagnare i Giri d'Italia, i Tour de France e tutte le gare che seguì anche al termine della carriera. Beh, su questo aspetto, su quanto lui fece per salvare questi ebrei dalla deportazione, mantenne un riservo assoluto anche con voi di famiglia, vero? Cioè, la mamma è venuta a saperlo dopo che gli hanno consegnato la medaglia d'oro nel 2005, il Presidente della Repubblica gli ha consegnato quella medaglia d'oro per aver contribuito a salvare più di 800 cittadini israeliti, ecco, per cui la mamma dice, ma guarda che cosa faceva mio marito durante la guerra, io non sapevo nulla. Non sapeva nulla nessuno, perché era una... lui andò in clandestinità, in questa clandestinità, in questa rete clandestina che era Delashem, meno gente sapeva, meglio era. Poi lui non raccontava queste cose, quindi diceva sono cose personali, il bene si fa ma non si dice, perché la più grande vigliaccheria per mio padre era quella di potersi farsi belle, di speculare, di arricchirsi anche sia in gloria che in denaro, sulle disgrazie, sui dolori degli altri. Dice, io queste cose non mi piacciono, quindi sono mie, le ho fatte io per la mia coscienza. Perché, diceva, aggiungeva, lo sport, ma soprattutto il ciclismo, se non è lezione di vita e solidarietà, non serve assolutamente a nulla. Quindi lui, con questo spirito di solidarietà, si è buttato nella mischia, come faceva sempre, e ha contribuito a salvare molti perseguitati religiosi. Ecco, ricordiamo anche cosa accadde in quegli anni, cosa siete riusciti a ricostruire, lei, alcuni giornalisti appassionati, qualche ex corridore, li ricordiamo, Laura Guerra, Paolo Alberani, insomma, sono nomi che hanno restituito alla storia dell'Italia questa pagina importantissima. Ecco, l'essere Bartali in tempo di guerra in qualche modo aiutava, non a lanciarsi di imprese del genere, perché tutto sommato la fama che già accompagnava Ginettaccio lo metteva un po' al riparo dai rischi maggiori, dal fatto di poter essere perquisito. Nessuno, insomma, andava a smontare quella bicicletta che invece nella canna nascondeva preziosi documenti, no? Sì, è vero. Intanto tutto è partito dal cardinale Lia della Costa, il cardinale di Firenze, che aveva unito in matrimonio i miei genitori, che anche lui tra l'altro qualche mese fa è stato nominato giusto fra le nazioni, quindi c'era tutta una documentazione fatta sul cardinale che poi si è trasferita, già fatta e già esaminata su mio padre. E un giorno lo chiamò dicendo: senti Gino, la situazione è questa, ci sono più di 3, 4, 5 mila ebrei nascosti nei convitti, nelle chiese, nei seminari, nelle nostre sedi apostoliche, quindi della Toscana, eccetera. Bisognerebbe salvarli, dice, perché adesso hanno le leggi razziali che sono state applicate ferocemente dalle truppe naziste in Europa, dice, anche qui in Italia non stanno scherzando. Quindi dice: io temo per queste famiglie, per queste persone, cosa possiamo fare? Dice: io, il cardinale Della Costa, ho preparato tutto, documenti falsi, ciò che mi fa le fotografie false, chi non mi fa falsi, tutto, perché non era solo una carta d'identità, c'era da fare anche la carta annonaria per i ragazzi che erano più piccoli dove erano a scuola, perché erano lì in quel momento e non in classe, per i ragazzi più giovani perché non era da fare militare, a quale arma appartenevano, perché erano lì e non al fronte o da qualche altra parte. Insomma, era complessa la storia dei documenti, mancava solo il postino, cioè quello che... la staffetta, insomma, la diciamo. Staffetta. Chi meglio di Gino Bartali avrebbe potuto farsi qualche chilometro in bicicletta per portare queste carte? Più di qualche chilometro, Più di qualche chilometro, perché papà praticamente accettò subito, ma il cardinale disse: guarda Gino, che se ti trovano i documenti ti possono fucilare anche sul posto. Lui dice: va bene, io... il bene si fa, ma non si dice. Io sono solidale con quelli che sono le persone che in questo momento soffrono, per cui ecco, si mise in gioco così senza pensarci due volte. E quindi la prima volta faceva Firenze-Genova, passando dalla Certosa di Farneta, dove i certosini gli davano altri documenti, lui gli dava altri documenti, poi li portava a Genova, alla curia di Genova, dove lì, poi ho saputo recentemente, la curia dava dei soldi a mio padre che venivano attraverso la Svizzera dagli ebrei americani. E quindi, insomma, papà poi riportava indietro quelli che erano i soldi per questa rete clandestina. Che cosa è successo? Che i tedeschi scoprirono tutta questa rete e ci fu il massacro di questi certosini. Gli unici certosini a non avere la barba erano quelli di Farnese, lì in provincia di Lucca, perché se no i tedeschi gliela bruciavano. Quindi fu anche una strage, alcuni furono portati nei campi di concentramento, altri furono trucidati sul luogo. Insomma, non fu uno scherzo questo dunque. Allora però non si persero d'animo, il cardinale Lia della Costa disse: vedi Gino, adesso siccome il fronte stava avanzando ed era fermo sulla linea Gustav, quella che andava da sotto Roma attraverso Cassino fino all'Adriatico, vedi Gino, dice, ora noi dobbiamo far attraversare questa linea ai nostri perseguitati. Rinforcò la bicicletta. Inforcò la bicicletta, andava dai francescani di Assisi, i francescani gli davano dei documenti, c'è un bellissimo museo tra l'altro lì ad Assisi, c'è la stampatrice ancora dei signori Sizzi, insomma c'è diverse cose, insomma, che ancora ricordano. E papà partiva la mattina, ci faceva 170 km andare dai frati francescani e altri 170 km ritornare a Firenze, sempre in bicicletta con documenti nascosti, insomma 370 km, 340 km, che non è nemmeno il percorso degli ultimi campionati del mondo fatti a Firenze ora a settembre. Insomma, ecco, insomma, per dire che Ginettaccio pedalava e come per... per questa missione straordinaria e altissima. E, le chiedo ancora, Andrea, questo racconto mi fa immaginare un ginettaccio che fosse oggi qui con noi, sarebbe in prima fila a Lampedusa ad aiutare queste persone che arrivano dal mare. È lontana dal vero questa immagine oppure in qualche modo ci può stare? Sì, no, forse a Lampedusa no, perché sono già organizzati, però ecco, a cercare lavoro a questa gente, cercare di sistemarli, sì, attraverso le sue amicizie, le sue conoscenze, certamente sì, insomma, sarebbe dato da fare, avrebbe portato, come aveva fatto poi anche col Vaticano, mio padre che andava in giro durante la guerra, siccome anche il Vaticano erano nascosti 3.500, 4.000 ebrei, anziani, donne e bambini, andavano dai contadini, suoi amici, qui in giro nella Toscana, per comprare patate, cipolle, farina, insomma tutto quello che era commestibile da mandare. Poi quando andava ad Assisi, anche i francescani, gli disse: tu Gino che hai fatto il giro di Francia, il giro d'Italia, conosci bene l'Italia, perché non vai un attimo a Pescasseri, ci abbiamo un frate soprannominato il frate di contrabbandieri, è un frate confessore, vai lì che lui ti mette in contatto con tutti, guardi se ci sono intanto posti di blocco, vai e torna e raccontaci. Papà Poretto pigliava, andava su da questo frate, metteva in contatto con questi contrabbandieri che poi non erano altro che dei borsari neri, sapevano però quali erano i varchi in questa linea Gustav, e poi ritornava per l'Alto Maceratese, faceva dei giri impossibili a raccontare praticamente ai francescani quello che sapeva e quello che aveva visto. Beh, un'avventura a pedali, un'avventura straordinaria quella che ci sta raccontando Andrea Bartali e che Gino Bartali visse sui pedali. Andrea, le chiedo ancora, oggi, a distanza di tanti anni da quanto accaduto e con il riconoscimento di quella storia straordinaria che è arrivato, nella memoria di un figlio rimane più il papà campione o il papà giusto fra le nazioni, seppur inscindibili chiaramente, ma la sera quando ripensa a Ginettaccio che immagine rimane? Ma io ho scritto un libro, è uscito l'anno scorso, Gino Bartali, mio papà dell'edizione Limina, e ho spiegato un po' tutte queste cose. Mio padre, io rispondo come avrebbe risposto, come ha risposto lui. Mio padre io lo vedo più come un campione che non come un salvatore di persone, perché lui quando gli disse: oh ma Gino, ma tu qui hai fatto, hai detto durante la guerra, e lui disse semplicemente: io non voglio essere ricordato come un eroe di guerra, voglio essere ricordato per le mie imprese sportive. Io non ho fatto nulla di particolare, tutto quello che ho fatto è fare ciò che sapevo fare meglio, andare in bicicletta. E beh, allora giudicate voi il senso ultimo di questa straordinaria risposta di Gino Bartali che ci è arrivata attraverso la voce di Andrea Bartali, il figlio. Andrea, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo e per continuare a pedalare insieme a Ginettaccio ancora oggi anche nel giardino dei giusti dello Yad Vashem. Perfetto, grazie e buonasera a tutti. Ora una breve pausa, poi torniamo insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Seconda parte di A Bordo Campo e allora da Gerusalemme, dallo Yad Vashem, da Firenze, dalle emozioni che ci ha regalato Gino Bartali, Fausto Coppi ed Andrea Bartali, il figlio di Ginettaccio, ci spostiamo da tutt'altra parte. Guardiamo ora a Bordo Campo verso Sochi 2014. Olimpiadi invernali ormai alle porte. Si parte il 7 febbraio in queste che saranno le grandi Olimpiadi dello zar Putin e di tanti altri campioni. L'Italia gioca una carta nuova al tavolo di quello slittino dove Armin Zögler cerca l'ennesima medaglia olimpica. Schieriamo un campioncino, 20 anni, Dominik Fischnaller, che il suo primo centro in Coppa del Mondo già l'ha piazzato. Era appena il 17 novembre scorso a Lillehammer in Norvegia. Sentite com'è andata. Vai Dominik! Il tempo di spinta 4.420 nella prima manche, che era stato un buon tempo per lui, 4.425, siamo lì, 43 millesimi, se ne sono andati 3 centesimi del vantaggio che si aveva su David Müller, ma David è più forte in spinta. David non è stato brillante nel finale, attenzione, adesso siamo dietro, ma niente paura, Dominik può recuperarlo questo svantaggio. 30 millesimi, siamo ancora perfettamente in gara per il primo posto, dai Dominik. senza errori. Andiamo a prendere velocità per il finale di gara. 16 millesimi, stiamo recuperando Dominik Fischnaller nella seconda parte di gara. Adesso occhio alla 13, momento topico di questa gara. Esce bene, siamo avanti. Dominik Fischnaller, 131.2 km orari, sensazionale la velocità per l'azzurro, il jet azzurro che va in caccia del primo successo in Coppa del Mondo. E arriva il primo storico successo per Dominik Fischnaller. E allora, questo il primo trionfo in Coppa del Mondo di slittino per Dominik Fischnaller, che oggi è ospite qui a Bordocampo. Partiamo subito dall'emozione vissuta a Lillehammer. Immagino che la prima vittoria in Coppa del Mondo sia un po' come il primo amore, quella non si scorda mai, vero? Eh sì, no, certo, non dimentico mai che come è andato tutto lì, ma è andato tutto molto bene e abbiamo lavorato tanto in estate, e gli allenatori con i materiali e noi alla partenza, e così è andato che ho vinto la gara. Ecco, cioè, qual è l'immagine che più ricordi di questo primo successo in Coppa del Mondo? Beh, sicuramente che ho fatto il record della pista, e questo penso che non dimentico mai. So che Armin Zögler ha un rapporto molto, molto intenso, no, con la sua slitta. So che la lavora nel suo garage, quasi è il suo strumento di lavoro quotidiano. Ecco, anche tu hai questa attenzione, questa cura estrema di quello che poi è il vostro slittino, insomma, che è il vostro strumento di lavoro. Sì, ho anch'io, ma sicuramente io lavoro di più con gli allenatori e mi aiutano di più. E così è, devo ancora imparare tanto. Senti, che rapporto c'è con Armin? Visto che tu sei indicato da molti come il suo erede, ma sappiamo bene che lui non vuol certo lasciarti facilmente il posto di prima punta della squadra azzurra. Sì, è perfetto con lui. Lui mi dà sempre consigli e mi aiuta quando ho problemi, e così. È molto importante per me a crescere, e va tutto bene così. Vi scopriamo voi slittinisti soprattutto negli anni olimpici e soprattutto chiaramente in inverno, ma come lavorate in estate per preparare la stagione? Quali sono gli esercizi, i lavori anche tecnici che fate in particolare durante il periodo estivo? Sì, siamo tanto nella sala di pesi, facciamo tanta forza. È sicuramente molto importante di fare allenamento sulla spinta, e questo abbiamo fatto tantissimo quest'estate con il nostro nuovo allenatore Oswald Haslerida, e abbiamo fatto un passo avanti e è andato bene. Le Olimpiadi di Sochi sono davvero vicine, Dominik. Ci credi in un podio? È possibile? Non lo so, sicuramente è sicuramente molto difficile, perché ci sono sicuramente due tedeschi e dopo anche c'è tutto va meglio. No, io penso è molto molto difficile, ma vediamo. E dal punto di vista tecnico, che pista è quella di Sochi? La pista è molto bella, e la partenza che non conta così tanto, perché è molto ripido, ma la pista è lunga, e questo è sicuramente buono per noi, e a noi piace. Se il tempo c'è freddo, possiamo andare forte. Ecco, c'è un po' il rischio delle temperature, perché Sochi in quel periodo vicino al Mar Nero potrebbe anche presentare delle temperature sorprendentemente calde per la stagione, no? Sì, vero, questo è il nostro problema che abbiamo, che se sono le temperature troppo alti. Senti, ti lascio facendoti un grande in bocca al lupo. Ecco, confessaci, a qualche settimana dai giochi di Sochi, che emozione ti immagini? Qual è l'immagine che in qualche modo ti stai prefigurando di questa che è la tua prima Olimpiade? Sì, per me è sicuramente molto importante di qualificare per Sochi, e dopo si vede come va lì, ma sicuramente è importante di qualificare prima. Bene, allora un grande in bocca al lupo Dominic e buon duello con Armin Zöggler, dai, ci immaginiamo, sarebbe bello sognarvi entrambi sorridenti la sera della gara a Sochi, dai. Sì, speriamo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento è come sempre per domenica prossima alle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.